bomba e concludo, mi pare che avesse qualche ragione d'essere. Assumere fu solo e furono momenti e un momento di caduta eccezionale, un caso extraordinaire, come disse Robespierre, o la loro ombra ci sta in qualche maniera ancora accanto come un pericolo anche attuale, e il valore della legalità, della legge e di regole che individuano, lo ripeto per l'ultima volta, un dentro e un fuori, sono forse in gran parte una ricorrente utopia o addirittura qualche cosa di sbagliato, come non pochi oggi sostengono. Ecco, questo è l'interrogativo dal quale io sono partito come titolo di questa conversazione e al quale ritorno e al quale non so dare una totale risposta, ma forse poteva valere la pena di sottoporla alla riflessione ulteriore di tutti noi, e con ciò ringrazio della cortese attenzione. Ringraziamo il professor Nobili per questo suo excursus dal 1792 ad oggi, e possiamo dire nil novi, il vecchio detto sempre di moda. Do la parola al professor avvocato Emanuele Fragasso, che ci parlerà sul tema Il difensore in un processo dall'esito non imprevedibile, Raymond de Sèze e la ricerca del diritto di fronte al potere. Prego. Grazie. Nel ringraziare l'avvocato Schiavo per avermi concesso l'onore di prendere parte a questa riunione culturale e giuridica, mi viene in mente una regola non scritta che si rispetta in sede giudiziaria, in sede forense. I maestri chiudono gli interventi, chiudono la discussione, parlano per ultimi. E oggi un, non posso dire allievo, un discente indegno ha l'onere, che direbbe un romanista, il privilegio curioso, di parlare dopo che un maestro della gigantesca statura di Massimo Nobili ha già detto, e ha detto tutto. I miei pochi appunti, che contenevano qualche concetto malamente abbozzato, risultano in massima parte distrutti, e questo è il costo della violazione delle regole. Cercherò dunque di ricucire in questa istruzione alcuni concetti, guardando al tema che mi tocca svolgere, quello cioè della prevedibilità o imprevedibilità di un processo, o per meglio dire dell'esito che agli occhi del difensore il processo incomincia ad avere, quello della non imprevedibilità. Anticipava da par suo il professor Nobili che il mio intervento avrebbe dovuto toccare la questione del dubbio all'interno del processo. Un dubbio come essenza, come ontologia processuale e come fine di un metodo che il legislatore ha elevato a re. Il processo dovrebbe nascere da dubbi e deve approdare a certezze, perché il non liquet non è consentito. Le pagine già lette e le memorabili parole dell'avvocato de Sèze davanti all'assemblea che doveva giudicare il re di Francia dimostrano invece che nella concretezza processuale. Ci sono delle esperienze processuali, giudiziarie, in cui il difensore ha davanti a sé, durante lo svolgimento della sua attività di difesa, tutt'altro che dubbi, ha soltanto una certezza. Il difensore prevede quale potrà essere l'esito del giudizio e, come una sorta di semeiota giudiziario, è chiamato ad emettere una prognosi infausta. Il giudizio sarà favorevole all'accusa e non potrà essere diverso, perché alcuni principi, cioè alcune manifestazioni del potere, ora religioso, ora laico, ora di una classe, ora di una razza, impongono al giudice di decidere in un certo modo. Dunque al dubbio si sostituisce una certezza e una utilità sociale che aspira a farsi parte di un dispositivo. Dubbio o certezza? E già il professor Nobili, in questa intelligentissima da par suo definizione di una qualcosa che è esterno o qualcosa che deve essere interno al processo, mi consente di svolgere alcune brevissime riflessioni. Nel processo di De Sèze si vede larga parte di quel processo di tipo inquisitorio in cui la prova si forma fuori del processo e nell'ambito quale la difesa ha una funzione di puro commento, quella che a volte io mi azzardo di definire una funzione di critica filologica, e soltanto filologica, esattamente il contrario del modello di processo accusatorio, che poggia invece su radici epistemologiche completamente diverse: il dubbio, la formazione dialettica della prova, la partecipazione di tutti i soggetti alla formazione del tema della prova e alla dimostrazione del fatto ignoto. Ma si sa, l'epistemologia a volte in materia processuale è il corrispondente speculare di concezioni politiche, e lì dove si ha una concezione autoritaria del potere, forte si direbbe oggi, la prova si forma fuori. Allora, quando invece il dubbio non fa paura, ma è vissuto come un momento ineliminabile della conoscenza dell'uomo, la prova si forma all'interno del processo e non ci si meraviglia e non ci si scandalizza che la prova venga costituita anche dall'intervento del difensore. Loro hanno già inteso che sto riflettendo su due modelli, il processo accusatorio e il processo inquisitorio, la concezione autoritaria e la concezione garantista della prova. E per fare un brevissimo riferimento ai nostri giorni, enuncio per l'ennesima volta la mia incapacità di comprendere, di condividere e, se posso dirlo, di giustificare alcune pronunce della Corte Costituzionale che hanno reintrodotto nel nostro sistema giuridico una concezione autoritaria della prova. Quello che Dominioni definisce il nuovo idolum fori, ossia il principio di non dispersione probatoria, che è il cavallo di Troia per rimettere in corsa un'istruzione sommaria condotta dal pubblico ministero, altro non è che un modello in cui la prova si forma fuori, prima del processo e senza il contributo delle parti del processo. Ma è una verità, quella del processo inquisitorio, che si fonda, si poggia su una ideologia che credevamo abbandonata, quantomeno in chiave processuale, cioè l'ideologia della autorità, che è garanzia di genuinità e di veridicità. E l'autorità dei nostri tempi è certamente un'autorità laica ed è di di tipo giudiziario, ma è pur sempre l'autorità giudiziaria che garantisce che la prova è genuina e veridica, dunque non si deve disperdere, dunque deve essere conservata. E per chiudere questa digressione che nasce dal dubbio e arriva al tragico scetticismo dei giorni nostri, ripenso alle belle pagine di Renzo Orlandi sulla attività argomentativa del nostro processo, nelle quali Orlandi si riesce a dimostrare la giuridicità dell'attività difensiva e non il suo carattere puramente oratorio, retorico, epistemologico o nei casi peggiori di puro e semplice addobbo di una sala di udienza. Nella visione argomentativa della prova il difensore concorre, nel senso deterministico della parola, a formare la prova, che dunque ha il proprio baricentro nel processo e non fuori del processo. Esattamente il contrario, invece, nella vicenda che vide come condannato Luigi Capetto e difensore De Sesi. La prova si formò fuori. La prova era insuscettibile di confutazioni sul piano storico. Vi era un a priori politico, una necessità di carattere storico contingente che esigeva la eliminazione della persona fisica del re. E nel suo splendido lavoro sulle forme e i principi, il professor Nobili contrappone alle forme giuridiche e processuali i principi, cioè le categorie della opportunità, della necessità politica, della ragion di Stato, del momento, che impongono, ripeto, e perdonatemi la ripetizione, determinate soluzioni. De Sees accettò la difesa di Luigi Capetto sapendo, rendendosi conto che vi era questa soluzione. Per cui io non condivido il giudizio critico che alcuni, assai più autorevolmente di me, hanno espresso intorno alla intelligenza e alla lungimiranza di De Sees. De Sees si era reso perfettamente conto, oggi si direbbe in termini un po' meteorologici, del clima di quel processo. E infatti la prolusione del suo intervento difensivo dà esattamente la misura di questa sua consapevolezza. Quel momento di magia che è stato commentato dal professor Nobili è anche il momento di maggiore attacco a questa situazione, già che De Sees finalmente saluta il momento in cui Luigi, accusato in nome del popolo francese, può farsi ascoltare, in cui, circondato dai patrocinatori datigli dalla umanità, attenzione, e dalla legge, può presentare alla nazione una difesa approvata dal suo cuore e mettere in chiaro avanti di essa tutte le sue intenzioni. E non a caso lo ha già ricordato il professor Nobili, il passaggio successivo dell'avvocato De Sees è il riferimento a due categorie. Il giorno della giustizia è finalmente arrivato e si contrappone ai giorni di collera e di prevenzione. E il giorno della giustizia è caratterizzato dalla imparzialità e dalla libertà. L'imparzialità che è figlia della legge e la legge che è garanzia dell'imputato e, come vedremo, del giudice. Egli dunque si era reso perfettamente conto che il giudizio era già con un esito ben preciso, difficilmente evitabile, difficilmente modificabile. Ma ciò nonostante non solo accettò, ma svolse fino in fondo il suo incarico. Fu un atto di presunzione, fu un atto di incoscienza, fu un atto di superficialità? Mi sento di dire no a queste domande. No motivatamente, anche se loro mi perdoneranno se la mia argomentazione risulterà molto ellittica, perché tutta la cosiddetta arringa di Raymond de Seize dimostra che egli sapeva di avere a che fare con dei soggetti parziali, che egli non chiamava giudici, li chiamava legislatori, li chiamava cittadini francesi, accusatori. La tante volte citata espressione «cerco tra voi dei giudici, ma trovo degli accusatori» non è un obiter dictum, è una accusa precisa che Raymond de Seize rivolge ad un giudice la cui sentenza, il cui giudizio è ormai ampiamente previsto, e ai quali de Seize rimprovera, perdonatemi la rapidità dei cenni e degli appunti, rimprovera di essersi auto costituiti giudici, cioè di essersi attribuiti la qualifica di giudice senza ricevere questa da un precedente provvedimento legislativo. De Seize dice forte e chiaro all'uditorio giudiziario che questo non è caratterizzato dall'imparzialità, non è assimilabile ad un collegio di giudici, ma che al contrario è costituito da accusatori che hanno già manifestato le loro opinioni e che si attribuiscono illegalmente il potere di giudicare senza una preesistente legge. De Seize sapeva perfettamente quindi che il giudizio sarebbe sfociato in quel discorso, cioè colpevolezza del re in ordine a quelle accuse. Perché continuò il mandato fino in fondo? Si potrebbe pensare per un atto di superbia o un atto di fede. Nessuno di noi può dimostrarlo in modo certo e definitivo. Io sono convinto, da una serie di letture e riletture di questo testo, che in De Seize c'era una forte preoccupazione, quella di salvare l'uomo difendendo il re, di tentare di salvare la vita a Luigi Capeto cercando di evitare la pena capitale. È vero ed è innegabile che De Seize incentrò la sua difesa su alcuni principi processuali che cercherò rapidamente di ricordare, tra i quali spicca il principio di legalità processuale, ma è altrettanto vero e traspare da questa arringa che il baricentro assiologico della difesa sta nella tutela e nella difesa dell'uomo. L'uomo è l'incipit e la conclusione di tutta intera la arringa di Raymond de Seize. L'umanità. Si potrebbe dire, ma facile scoperta, siamo nel 1792, si cita Rousseau, è l'epoca in cui si incomincia a rivedere anche dal punto di vista costituzionale la logica del potere, che poi sfocerà negli anni successivi nella cosiddetta tendenza di razionalizzazione del potere delle costituzioni ottocentesche. Dunque l'uomo è visto come punto di riferimento necessario. Io mi permetto sommessamente di insistere: l'obiettivo di De Seize è non solo la legalità processuale, ma oserei dire soprattutto l'umanità processuale. La legge senza uomo è puro e semplice arabesco di logica, a volte nemmeno dotata di grande estro combinatorio. La legge con l'uomo diventa, detto con termini molto attuali, riflessione di carattere virtuale. La legge diventa concreta soltanto quando si fa giudizio. Mutuando da un titolo, credo dato dal professor Nobili, ad una serie di conferenze tenutesi all'Università di Bologna, che ho avuto modo di leggere qui a Vicenza, questo dimostra la superiorità del processo penale rispetto al diritto penale sostanziale, e non me ne vogliano i penalisti presenti. Ma ritornerò su questo concetto. Dicevo, Desèze continua la sua difesa pur sapendo di avere di fronte a sé dei giudici, si direbbe oggi, prevenuti. E allora, cercando di astrarci per qualche momento da questo problema, mi viene da chiedere e da chiedere: è proprio vero che il processo deve essere ad esito imprevedibile? Metodologicamente la domanda forse è meno mal posta e meno impropria di quella che può apparire. Cercherò di essere rapidissimo. Se il processo è manifestazione ed attuazione della logica, il processo deve avere un esito prevedibile, perché la logica consente una prognosi e dunque la previsione di un risultato. E aggiungo una seconda considerazione: se il processo, oltre che fenomeno logico, e anche attuazione di un sistema normativo, cioè rispetto nella fattispecie concreta i precetti astratti posti dalla norma, è altrettanto agevole arrivare alla conclusione che un modesto, un medio interprete giuridico deve poter prevedere l'esito del processo. E quindi si arriva alla conclusione che il processo, conforme a logica e conforme alla legge, deve essere prevedibile. Mi viene alla mente quella dotta disquisizione, se non ricordo male, degli anni Ottanta, e non solo degli anni Ottanta, che contrapponeva i civilisti e alcuni civilisti rispetto ai filosofi del diritto, se dovessero prevalere le leggi o la ragione. Sono le leggi che legano, o è la ratio, cioè la ragione, e dunque i valori che debbono avere il sopravvento? La ragione delle leggi o no? E irti, rispondendo a un filosofo, Natalino Irti reclamò e dimostrò la superiorità per un giurista delle leggi rispetto alla ragione. Ma permettetemi un momento soltanto di presunzione e perdonatemela: quella dotta, acuta contrapposizione si svolgeva sul piano del diritto sostanziale, non sul piano del diritto processuale. Sul piano, cioè, di una battaglia concettuale più sul piano delle carte che sul piano del terreno, cioè della concretezza. La concretezza appartiene soltanto al campo del processo, al campo del giudizio, e non a caso, io che mi onoro di essere ospite della terra veneta, proprio in Veneto si dice il palazzo della ragione per indicare il palazzo della giustizia. La ragione è sinonimo di giustizia, ma la ragione potrebbe essere qualcosa di diverso dal rispetto della legge, ossia, se non mi inganno, dalla validità di un atto che è conforme rispetto al precetto astratto. E allora come si risolve il problema? Temo che si debba, come sempre, evitare ogni assolutismo e non certo per battere delle soluzioni diplomaticamente a metà strada. Cercare cioè di capire che pur essendo il processo l'applicazione di regole logiche e pur essendo il rispetto di precetti giuridici astratti, il giudizio non è soltanto questo. Calamandrei, giovanissimo, parlò di genesi logica della sentenza civile. Con la maturità si autocriticò, avendo con l'esperienza, oserei dire con la ragione, che è il filtro tra logica astratta e ragion pratica, capito che il processo è l'attuazione concreta di questa logica astratta, e pervenne Calamandrei ad una sorta di inversione a 180 gradi. La sentenza non è soltanto il frutto di una deduzione di tipo sillogistico. Meraviglioso l'esempio che va bene per la nostra riflessione. Si vede il corpo di un essere umano che penzola, un impiccato. E allora la colpa di chi è? Uso il termine colpa tra virgolette. È del legislatore che ha previsto la pena di morte? O è del giudice che l'ha inflitta? È il legislatore che ha posto la premessa maggiore del sillogismo giudiziale, ma è il giudice che ha posto la premessa minore, che ha consentito all'esecutore, cioè al boia, di stringere il nodo attorno al collo del condannato. Ed è un rimpallo di responsabilità tra legislatore e giudice che ci fa capire una sola cosa: la legge sostanziale è mera potenza, nel senso logico-filosofico della parola, mentre il processo è atto, il processo è realizzazione in concreto. E allora si capisce perché il momento della sentenza, che significa un po' sentire, logica del sentimento oltre che della ragione, è l'unico momento che fa il diritto realtà. È l'unico momento, quello della sentenza, che ci fa capire l'intuizione di von Jhering quando parlava di lotta per il diritto. Non è la lotta sul diritto, è la lotta per il diritto, per una certa soluzione, per una certa attuazione, per un certo risultato, che nel caso del processo penale può essere l'impiccagione, la decapitazione, l'ergastolo, 5 anni, 15 giorni di reclusione. Se dunque la verità, come temo, sta in un giusto equilibrio tra la ragion pura e la ragion pratica, tra la logica astratta e la logica del caso concreto, tra la logica giuridica e la logica del sentimento, emerge che la funzione giurisdizionale, e in questo c'è la sua magia, la sua nobiltà e la sua profonda tragicità, avendo a che fare con l'uomo, si deve misurare con un problema di fondo, che non è soltanto il problema della legalità processuale. Il problema è quello della, direbbe il professor Nobili, portando descesa della estraneità del giudice, e come al solito mi ha ampiamente, di moltissime lunghezze, anticipato sul problema. Il giudice deve essere estraneo? Diciamolo con le parole di De Sesa: il giudice innanzitutto deve non nutrire odi, passioni. Infatti De Sesa, a pagina 14, ricorda la facoltà di ricusare più giudici data dalla legge, proprio perché necessità a ribattere o ad evitare l'odio e la passione. Odio e passione, categorie del sentimento e probabilmente non della ragione pura. Ci avvicina, per il tramite della legge che prevede le ipotesi di ricusazione, al mondo palpitante dell'amore, degli stati emotivi, degli stati passionali, che pure il diritto penale conosce, ma che soltanto il diritto processuale amplifica e rispetta. Estraneità del giudice? Mi pare eccessivo se interpretato da me in termini troppo rigorosi. Il giudice non è una macchina e certamente il professor Nobili non intendeva estraniare il giudice rispetto al processo. Il giudice vive sulla sua pelle il giudizio. Il monito del professor Nobili è l'imparzialità del giudice, il non avere da parte del giudice un interesse in rem o in re, e non avere un odio o una passione contra reum. L'imparzialità vuol dire non essere schierati a favore dell'uno contro l'altro. Nei nostri tempi, che hanno degradato la cultura a variabile del tutto facoltativa, si usa in questi casi ricorrere al paragone dell'arbitro che patteggia per una delle parti, per una delle squadre in gioco, perché al di là del campo di calcio noi non riusciamo ad andare. Perdonatemi una presuntuosa citazione di segno diverso. Il disinteresse del giudice è, penso molto sommessamente, fuorviante per descrivere ciò che ci interessa. Il giudice deve essere interessato, proprio perché epistemologicamente il giudice non deve sapere, si deve formare la sua conoscenza nel processo e dunque deve essere curioso. Ecco il dubbio che mi emerge metodologicamente. Quindi non può essere interessato, perché altrimenti il giudice diventa terzo in senso epistemologico. Ma quale tipo di interesse? È un interesse fisiologico alla conoscenza, perché egli dubita socraticamente. La estraneità, la imparzialità del giudice, vorrei dirla con una parola di Nietzsche, è, che è stata mal tradotta, se posso dirlo, cioè il disinteresse, allora quando Nietzsche commentava Spinoza, diceva la mancanza di egoismo. Io apprezzo in Spinoza la mancanza di egoismo. Cosa voleva dire? La mancanza di interessi propri, della propria persona, verso il mondo della natura, nel caso di Spinoza, e dunque verso Dio, e nella nostra prospettiva processuale la mancanza di interessi egoistici che appartengono alla passione, all'odio politico, sentimentale, economico, che possono animare in un senso o nell'altro il giudice. Può essere fuorviante la vicenda giudiziaria di De Sés, di Luigi XVI, perché siamo i massimi sistemi. Sono processi che si celebrano, per fortuna, raramente. Il giudice parziale, mediamente, è il giudice che magari odia i difetti di Tizio, perché il giudice è molto virtuoso, è molto credente e può avere qualche forma di intolleranza. Il giudice può non amare Sempronio, perché Sempronio è ricco, è prepotente e dunque gli è antipatico, perché il giudice vive onestamente del proprio stipendio. il giudice può non amare Sempronia, donna non come la moglie di Cesare, perché sua moglie, intendo del giudice, è a sua volta diversa dalla moglie di Cesare. E dunque, per queste ragioni molto umane, se vogliamo, ma l'umanità è quella che connota le nostre azioni, il giudice nutre una passione positiva o sfavorevole verso quell'imputato o verso quel testimone. Il processo penale si fa così. Mediamente sono pochi i re, i governatori, c'è qualche senatore a vita, ma anche lì sono eccezioni, che fanno parte dell'eccezione. La regola del processo penale è l'essere umano. E dunque l'imparzialità del giudice è quella famosa mancanza di egoismo, cioè di passioni e di sentimenti, a favore o contro. De Sese capì tutto questo. E quando disse: vedo in voi degli accusatori e non invece dei giudici, vedo in voi dei soggetti portatori di forza politica, capì che essi erano i detentori del potere. Direbbe l'autore dell'Iliade: i detentori dello scettro, non delle leggi. E non a caso Agamennone, quando parla, passa in rassegna gli eserciti, fa una reprimenda ad un soldato che si allontana dicendo: ma cosa fai, dove ti muovi, cosa dici tu? Ricordati di stare nelle righe e di rendere omaggi a chi ti comanda, perché a lui è stato dato lo scettro e il potere delle leggi, sia lo scettro sia il potere delle leggi, diceva Agamennone al soldato fuori posto. Potere e legalità. Questo è il punto finale della mia riflessione. La legge senza potere non esiste. Hobbes ha insegnato che auctoritas, non veritas, facit legem. L'effettività partorisce la legge. E la legge è il prodotto finito del potere. Purtroppo il potere emerge in tanti modi, con quelle verità sociali, con quei problemi di legittimazione di cui parlava il professor Nobili, anche nel processo. Per culminare poi, e ricordo sempre le riflessioni sul punto del professor Nobili, sul terreno della prova. Quando un dotto magistrato fece sua la teoria della responsabilità in tema di prova, abbandonando quella della probabilità, della certezza in materia di indizi, e dicendo: il giudice deve ricordarsi di osare, abbandonando la logica che fino a quel momento aveva ispirato la Corte di Cassazione nella decrittazione dei segni o dei sintomi indiziari che imponevano la ricostruzione di un fatto, di un evento, in determinati termini, escludendo l'ipotesi diversa. Allora il giudice formulò la tesi della ipotesi preferibile, ipotesi moralmente condivisibile, ipotesi socialmente utile. Ma questo è un altro problema. Potere e processo non sono entità diverse tra di loro. Al contrario, sono purtroppo entità che collimano e a volte confliggono. Per un normativista si dovrebbe dire: il processo è applicazione di legge, dunque non c'è nessun conflitto con il potere, perché la legge a sua volta è figlia del potere. È vero. Ma non credo che questa conclusione sia immune da eccezioni. Mi viene alla mente l'esempio di Socrate. Socrate rivendica il potere dell'individuo e viene accusato di impietà. Giovanna d'Arco rivendica il principio di autodeterminazione dei popoli. Il pisano Galileo Galilei rivendica l'autonomia della scienza e viene accusato e condannato dalla Inquisizione Santa. Che cosa è in gioco in questi casi? Non certo la validità del processo, cioè la sua conformità a leggi. È in gioco quella lotta per il diritto di Fognieri. È in gioco quel contrasto tra un potere costituito e un qualcos'altro che tende a costituirsi come potere. O che critica il potere costituito. Quando pochi minuti o tanti minuti fa io dicevo, mutuando dal professor Nobili la superiorità del processo penale rispetto al diritto penale sostanziale, avevo davanti agli occhi una frase di un filosofo letterato spagnolo, Miguel de Unamuno, il quale ha scritto, come loro sanno, un bellissimo saggio intitolato L'uomo di carne e di ossa. L'uomo di carne e di ossa è quello che consente al processo penale questa superiorità. Perché il processo penale si esercita su un uomo di carne e di ossa. E su quell'uomo si traduce in realtà una norma astratta. Un valore, una sanzione, una condanna. Il processo penale porta ad un giudizio che, qui forse devo fare un po' di autocritica, ho detto tante volte, è un giudizio che mira ad accertare dei fatti, ma mi devo autocriticare, perché in realtà è parziale ed ellittica questa conclusione. Il processo penale non accerta soltanto fatti, individua responsabilità individuali, personali, ricostruisce quella che i criminalisti chiamavano la prova della generica, an crimen commissum sic. C'è un omicidio o c'è una morte naturale? I criminalisti. Ma poi il processo penale si fa carne, ossa e sangue perché dice tizio ha commesso quell'omicidio anziché Sempronio, la prova della specifica. Ecco, perdonatemi la insistenza, l'umanità del processo penale che attribuisce al processo penale un qualcosa che il diritto penale non ha. Il giudizio si fa carne, ossa e sangue. Si riferisce a un essere umano, all'umanità. Non a caso De Sèze apre e chiude il suo intervento invocando l'umanità, che non è soltanto una citazione di tipo jus naturalisti. Alle leggi egli fa seguire il rispetto dell'umanità, alla figura del sovrano decaduto e deposto fa seguire il rispetto dell'uomo, Luigi. Come conclude la sua arringa De Sèze? La conclude proprio richiamando due valori, quello della patria, francesi, la rivoluzione che vi rigenera ha sviluppato in voi i germi di grandi virtù, ma temete che non abbia indebolito nel vostro cuore il senso dell'umanità senza cui non è virtù vera. Ascoltate fin d'ora ciò che un giorno dirà l'istoria alla fama. L'umanità è riferimento alla storia. Abilissima questa movenza di De Sèze. De Sèze chiude l'arringa dicendo: mi arresto in faccia alla storia. Pensate che essa giudicherà il vostro giudizio e che il giudizio di lei sarà quello dei secoli. Umanità, storia, giudizio dei secoli. Nel 1799 Vincenzo Cuoco, un po' di chilometri più a sud, scrisse la storia della rivoluzione napoletana in un saggio che è stato anche abilmente e autorevolmente recensito dal professor Giuliano Vassalli. E anche Cuoco richiama l'attenzione sulla giusta posterità. Consapevole Cuoco che i posteri a loro volta possono essere portatori di passioni favorevoli per chi? Per chi ha vinto. E allora sono posteri tout court. Ma quando i posteri sono giusti e quindi liberi dalle passioni, la garanzia delle garanzie, ricordandola nel suo bel libro sulle intercettazioni, la motivazione è il momento di verifica di tutto nel nostro campo. Razionalità come conformità a modelli epistemologici. Validità come conformità a modelli giuridici. Umanità come conformità a modelli di, oso dirlo, equità, di giustizia, di ragione umana. La motivazione abbraccia questi, tra gli altri, questi grandi temi e capitoli processuali. Nel caso di Luigi Capeto, la sentenza non doveva essere motivata. E allora la difesa. La difesa non fu un atto di presunzione o un atto di fede. Sono profondamente convinto che fu l'esercizio di una funzione in senso giuridico, esercitata nel rispetto di certi principi giuridici e in vista degli interessi dell'uomo, per la storia dell'uomo. A pagina 9, se la memoria non mi inganna, lo ha già ricordato il professor Nobili, c'è un passo, infatti non è pagina 9, un passo di grande importanza sulla difesa, e pagina 35. Io da difensore vorrei avviarmi a concludere con questa riflessione. Luigi è accusato innanzi a voi, innanzi alla Francia, innanzi all'Europa. Dovete dunque ascoltarlo e sospendere intanto ogni prevenzione, ogni odio. Dovete ascoltarlo come se foste stranieri a questa scena. Lo ha già ricordato il professor Nobili. Voi lo dovete poiché vi siete creati. Voi giudici, suoi giudici. Perdonatemi se approfitto della vostra cortese pazienza per qualche altro minuto. Voi, accusatori giudici, dovete ascoltarlo perché voi vi siete creati suoi giudici. L'abilità, la genialità di De Cesare e anche il processo farsa, anche il giudice suspectus, anche il judicium suspectum possono aspirare ad apparire validi. Non lo sono più. E sfociano nella inesistenza più radicale allora quando, pur mancando la pre-costituzione del giudice, pur mancando la legalità processuale, pur mancando la soggezione alla legge, bene, nonostante tutte queste lacune, c'è un barlume allorquando viene riconosciuto il diritto di difesa. Vi siete voi costituiti suoi giudici. Per un giurista è un giudizio invalido. Voi non potete violare un'unica regola di fondo: ascoltare. Chi? La parte materiale, dunque la difesa materiale. E chi altro? Il suo difensore, cioè la difesa tecnica. La violazione del diritto di difesa renderebbe inesistente, oltre che farsesco, tutta questa messa in scena. Dovete ascoltare. A proposito di superiorità del processo penale, il diritto di difesa è quello che può tendenzialmente raddrizzare, perdonatemi questa espressione ortopedica, ciò che invece farebbe pensare alla mostruosità e alla patologia. Il giudizio senza difesa, il famoso audiatur et altera pars, è momento ineliminabile, ecco perché inviolabile. E qui ripenso a quella garanzia che De Sesa ha intuito e ha detto: nessuno può essere giudicato se non in forza di una legge precedente. Molto più raffinata l'affermazione di De Sesa rispetto al nostro articolo 25,2, che dice nessuno può essere punito, una visione sostanzialistica alla nostra Costituzione. De Sesa dice nessuno può essere giudicato se non in forza di una legge precedente al fatto. Ma De Sesa supera se stesso dicendo: può anche esserci l'attentato al valore della legalità processuale, ad una condizione: che si ascolti e si senta la difesa in senso lato. Che significa ascoltare la difesa? A volte ci si addormenta, ma è l'effetto del giudice stanco che a me piace moltissimo, perché io preferisco il giudice che si addormenta rispetto al giudice assaltatore che fa la blitzkrieg, al giudice interventista che parla di bastoni, di verdure, non so quali siano, di accontentare l'uno, eccetera, eccetera. Preferisco il giudice che si addormenta rispetto al giudice che scrive al pubblico ministero chiamandolo con il nome di battesimo e dicendo: fammi il piacere, specifica questo, se non mi tocca poi fare una lunga camera di consiglio e comunque dovermi studiare questo e quest'altro a proposito di un egoistische, come diceva il buon Nietzsche. Io preferisco il giudice che si addormenta, non il giudice samurai che lavora nei buchi. Però il giudice che si addormenta deve ascoltare questa parola. La radice non è soltanto quella insegnataci dai maestri, e cioè che il processo è un atto di tre persone, come diceva Bulgaro: l'attore, il convenuto e il giudice. Non è soltanto perché questa triade compone il triangolo, eccetera, eccetera, eccetera. Non solo perché la nostra Costituzione lo riconosce come diritto sacro, ma perché, come si legge in un frammento che contiene una variante apocrifa della Genesi, Dio, dopo aver sentito l'angelo della giustizia, l'angelo della verità, l'angelo dell'amore, ascoltò anche il demonio. Si dibatteva davanti a Dio dell'idea di creare o no l'essere umano. Dopo aver sentito il diavolo che gli diceva: ma crealo quest'uomo perché altrimenti ti mancherà la corona, recita questo frammento della Genesi, ripeto, con variante apocrifa, Dio pronunciò le seguenti parole: d'accordo, diavolo, lo creerò. ma sarà l'unica creatura eternamente incompiuta. Avrà sempre in sé l'amore, la verità e la giustizia come immagini di me, ma non potrà mai realizzarlo. Ecco, in questa finitezza, in questo limite, in questa incapacità dell'uomo ad assomigliare a Dio, si capisce perché il processo, il giudizio, hanno una funzione magica per i greci, religiosa per addirittura i cristiani, e si capisce perché il baricentro del processo sia l'uomo di carne e di ossa, e si capisce perché alla fine soltanto il processo rende concreto nel bene o nel male ciò che astrattamente, genericamente, dice il diritto penale. Il diritto penale commina, il processo assolve o condanna. E in questa logica il difensore svolge una funzione ineliminabile. Fa, tenta di fare, contribuisce a fare che cosa? La socratica funzione. Tenta cioè di far riflettere, tenta cioè di far dubitare. Eravamo partiti da un dubbio, sono approdato non per lo scetticismo processuale, ma per il realismo processuale ad il dubbio della nostra esistenza. Quindi. Ringraziamo l'avvocato Fragasso per questo suo excursus sul primato della procedura, sul diritto sostanziale. Ringrazio tutti coloro che hanno voluto essere presenti a questo nostro convegno. Ero sicuro che questa sala si sarebbe riempita, anche a dispetto di qualche scettico che diceva verranno quattro gatti. Confidavo ed ero sicuro sugli avvocati, sui magistrati e su coloro che sono stati i nostri ospiti. Ora, come tradizione del circolo, due nostre giovani colleghe provvederanno a consegnare ai nostri ospiti un piccolo segno della nostra riconoscenza. Al consueto regalo, che è la munificenza poi dell'ordine degli avvocati, perché il circolo non ha quattrini, io ho aggiunto un piccolo libretto, un libriccino che contiene una frase che potrebbe essere di attualità e magari potrebbe essere anche fonte di un prossimo convegno. Nella città della filosofia di Monaldo Leopardi, la filosofia dice al cervello, ecco perché dico ci potrebbe essere un convegno con i giuslavoristi, ricordati che è più facile sbalzare dal trono un monarca costituzionale che licenziare dal servizio un guattero di cucina. Vi ringrazio, prego le colleghe.